Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno da Nicoletta, l'appuntamento di oggi è una buona occasione per fare un bilancio dei successi, dei passi avanti, dei risultati che grazie alla ricerca sono stati raggiunti nell'anno che si sta per chiudere e al tempo stesso parlare di quello che ci aspetta per l'anno che verrà. Per questo ho invitato Obiettivo Salute il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, docente all'Humanitas University e scienziato italiano più citato al mondo. Professor Mantovani, grazie, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora, siamo pronti per iniziare il nostro bilancio. Professore, il 2017 sarà ricordato come l'anno in cui le terapie immunologiche dei tumori hanno fatto dei passi avanti molto significativi e molto importanti. Ne cito due. Uno è l'uso di terapie immunologiche nel trattamento di diversi tumori, in particolare nel melanoma, anche in situazioni in cui si fa chirurgia e poi si segue con terapie immunologiche. Il secondo grande passo avanti è stato l'uso delle cellule del sistema immunitario. I nostri soldati, le nostre cellule del sistema immunitario, rieducate e lanciate all'assalto, per esempio, delle leucemie del bambino, per esempio dei linfomi a cellule T, con risultati davvero importanti. Professor Mantovani, avanti tutto, allora, ma cosa ci aspetta per l'anno che verrà? Io penso che ci aspetteranno ulteriori progressi nel settore della lotta contro il cancro, basati sulle terapie immunologiche combinate con le terapie tradizionali. Questa è un po' una delle frontiere, usare al meglio le armi che abbiamo combinandole nel modo ottimale. Ancora, e questa è una speranza, che si confermi i buoni risultati che il nostro paese ha nella lotta contro il cancro. È bene ricordare che i malati di cancro in Italia hanno una sopravvivenza media superiore alla media europea, confrontabile o superiore a quella dei paesi più ricchi europei. Quindi è un grande risultato che io mi auguro non vada perso nell'anno che verrà. Grazie professor Mantovani, auguri a lei. Auguri a lei e auguri agli ascoltatori. Auguri a voi tutti, ma non dimenticate che domani e domenica avete un appuntamento con me, con la vostra salutare ossessione quotidiana, ogni giorno a mezzogiorno, perché la salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. Una massima di Schopenhauer che, nonostante gli anni, non perde mai di significato.